Bentornati a Radio Prisma su Radio Pazza. Io sono DJ Prisma e questa è la terza puntata di Music Escapes. Thank you. Wow, un inizio decisamente esotico, orientaleggiante questo per il terzo appuntamento con Music Escapes. Questa volta DJ Prisma, ovvero me medesima sottoscritta, aveva voglia di iniziare con atmosfere diverse, quasi forse per ribadire un desiderio di viaggio che sto reprimendo da troppo tempo. E lui era la Bib dal suo EP, chiamiamolo EP, di due sole tracce, pubblicato su jamendo.com, e devo dire che, anche se non ho visto nuove pubblicazioni da parte di questo artista, secondo me meriterebbe, insomma, di fare anche un album, perché le basi, a mio gusto personale, ci sono tutte. Proseguiamo adesso invece con un genere completamente diverso. Lui è un dubmaster portoghese, Bandulu Dub, che in questo brano incontra Hornsman Coyote con il pezzo Changes dalla net label Fresh Pulp, ovvero polipo fresco. Of the changes, riding on the truth, so much it'll depend on you. Riding on the constants of the changes, riding on the truth, so much it'll depend on you. Riding on the constants of the changes, riding on the truth, so much it'll depend on you. Riding on the constants of the changes, riding on the truth, riding on the truth. Yes, I go this way. All this way, yet I never, never, never go astray. Yes, my people, all this way. Riding on the constants of the changes. fa veramente venire voglia di estate, di serate sulla spiaggia con tanta buona musica, un buon bicchiere di birra o qualsiasi altro intruglio per stare in compagnia o anche godersi un po' di musica e di movimenti scomposti o più o meno scomposti sul posto. Lui si definisce un drogato di collaborazioni musicali, infatti se andate sulla pagina che poi troverete linkata su il post che Bach pubblicherà su radiopazza.blogspot.com, alla pagina appunto dell'artista Bandulu Dub, relativamente al suo disco Spiritual Evolution, troverete appunto la tracklist dell'album, in cui ogni traccia è un incontro con un artista differente, per cui c'è veramente da sbizzarrirsi. E adesso passiamo invece a un artista chiamato, un duo diciamo, The Wind Whistles, il vento fischietta. E il brano che ho scelto, tratto sempre da una net label, questa volta la A Records, non so mai come pronunciarla perché sono 3 A seguite da 2 H, quindi a varie interpretazioni. L'altra volta l'ho chiamata A Records, stavolta A Records, fate un po' voi. Il titolo è House for a Mouse, una casa per un topo. Piaciuta questa casa per sorci, questa House for a Mouse? A me diciamo di sì, dai, perché abbiamo un po' sdrammatizzato un tema a me molto caro, che è quello della casa. Voglio andare a casa, la casa dov'è? Sì, perché se avete la fortuna o la sfortuna, a seconda dei punti di vista, di abitare nella capitale, saprete che comunque potersi permettere un alloggio o in affitto o in una casa di proprietà è quasi un lusso, un'utopia, soprattutto se consideriamo il vertiginoso aumento dei costi degli appartamenti in questi ultimi anni, quasi una specie di corsa all'oro, senza voler fare troppe polemiche, ma insomma, quando manca un'edilizia popolare degna di questo nome, quando comunque si pensa più al profitto che al diritto di una vita, ad avere una vita dignitosa da parte di chi lavora, visti i salari odierni, insomma, direi che giusto una casa per sorci mi posso permettere. Ma lasciamo spazio alla musica e andiamo avanti adesso con un brano degli Shampoo Tears, ovvero le lacrime da shampoo, carino anche il nome del gruppo, con il brano Too Late to Leave per la 23 Seconds Net Label. Thank you. Bello, bello quando la musica si apre e scappa in avanti. Infatti, non a caso, Music Escapes nasce proprio come musica che scappa dagli hard disk, invade le nostre orecchie e la città. Devo ammettere che camminare per strada con il proprio personale podcast nelle orecchie fa un certo effetto. Penso che chi ha incrociato il mio sguardo avrà pensato che chissà che cosa mi fossi fumata, perché avevo veramente uno sguardo da ebete, l'occhio luminoso perso nel vuoto, perché veramente faceva uno strano effetto camminare e nello stesso tempo sentire un'altra me parlarmi nelle orecchie. E anzi, mi consiglio anche a voi, se vi va, di fare i vostri propri podcast personali, perché oltre ad essere comunque una cosa molto divertente da fare, poi anche di ascoltarsi, insomma, dà proprio l'impressione di aver creato qualcosa che prima non c'era, quindi da guardare anche con un certo orgoglio e soddisfazione. Vabbè, va, fammola finita con queste autocelebrazioni. E dopo aver ascoltato gli Shampoo Tears, ci ascoltiamo invece un gruppo che viene dall'Argentina. La loro net label è Rectum, infatti è argentina anch'essa, e ho scelto per voi il brano Once Again With You, ancora una volta insieme a te. I ragazzi si devono ancora fare, ma secondo me, secondo il mio umile parere personale, il pezzo pompa. Perfect body, yeah. mancava un po' di buona musica rock qui su Music Escapes, il mio podcast dedicato alla musica Creative Commons da tutto il mondo per Radio Pazza. Io sono sempre DJ Prisma, nel caso ve lo foste dimenticato, ma ormai credo di no, e credo che qualcuno di voi avrà riconosciuto echi di altri gruppi più famosi in questi Le Pig, ma sinceramente io ho smesso di interrogarmi su questo. Per carità, lo lascio fare agli esperti, ai critici musicali, ai musicologi, quelli che conoscono le intere discografie dei gruppi. Io sono più terra terra, più de pancia, come si dice a Roma. Se un pezzo mi emoziona, bene, altrimenti male, nel senso, questo è il mio unico criterio per scegliere i pezzi. Mi devono comunicare qualcosa, sia nel bene che nel male, produrre immagini mentali, esorcizzare stati emotivi, sbattermi con le spalle al muro, farmi sognare, farmi dormire, farmi svegliare, insomma, chi più ne ha più ne metta, però per il resto, insomma, non mi metto a sezionare la musica, non ci riesco, non fa parte della mia natura. Quindi sempre continuando con musica che stimola i miei neuroni, questi sono i Clunks, sempre dall'etichetta Rectum, con il pezzo che si chiama Homeless Ghost, fantasma senza fissa dimora, un po' come me. We'll be right back. Un pezzo che mi viene da definire minimale, non so perché, questo dei Clunks. E adesso invece ci ascoltiamo un brano di un duo chiamato CLDSCP, che ho scoperto dal loro MySpace essere Calidoscopio Duo. Non vi dico nulla sul loro genere musicale, ma vi lascio direttamente all'ascolto del pezzo, che si intitola La Niebla, sempre per Rectum Net Label. Sensuale a dir poco questo brano, non trovate? Anzi, se vi va, lasciatemi anche un'opinione sui pezzi scelti, sugli artisti selezionati, lasciando un commento su radiopazza.blogspot.com, che è il contenitore in cui gravitano tutte le produzioni indipendenti, diciamo, i vari podcast prodotti a casa da ciascuno di noi. Perché insomma, ecco, avere un feedback da parte vostra è sempre una soddisfazione. Passiamo adesso invece ad ascoltare un brano di tutt'altro genere. L'artista si chiama Pelagi Senja e il brano si intitola Principle. Questa volta la net label è la 23 Seconds, che già abbiamo avuto modo di esplorare. We'll be right back. you did. No one is good, just wanna feel. Volete sapere perché questo gruppo ha un nome così, così strano? Perché sono indonesiani. E infatti Pelangi Senja, insomma, non mi dava proprio l'idea di un gruppo europeo. Adesso invece ci ascoltiamo gli Uniform Motion dall'album Pictures, che sono più che altro, come si autodefiniscono essi stessi sul sito della AHA Records, a ritaglie, un collettivo di artisti più che semplicemente una band musicale. Il brano che ho scelto per la selezione di Music Escapes numero 3 si chiama Earthly Diamond, diamante terreno. Buon ascolto. Goes out and I'm not scared. Streetlights float through the air. A silly crown fits like a glove. Non male davvero questo duo anglo-francese. Andando a dare un'occhiata veloce alla loro biografia sul sito della net label, di cui non pronuncio il nome, ormai sta diventando una barzelletta, dicono appunto di essere influenzati e guidati dalle cose della vita che, come loro stessi affermano, li colpiscono. Perciò il loro modo di capire, di comprendere il principio sottostante alla vita è una linea continua di proiezioni che è cambiata solamente attraverso eventi maggiori, che è un po' poi quello che capita a tutti noi, nel senso la vita scorre apparentemente piatta lungo una linea retta e poi ci sono quei grossi eventi o cataclismi che segnano un po' degli spartiacque emozionali o meno, insomma, che in qualche modo ci cambiano o cambiano quantomeno il nostro approccio verso i problemi, verso la vita e anche verso noi stessi, ciò che siamo capaci di affrontare. Un tempo fa scrissi nel mio blog appunto che ogni circuito è a sé e ciascun sistema conosce la portata massima che si è in grado di sopportare, poi si attivano dei sistemi di sicurezza, degli allarmi che attivano barriere antincendio, comunque elevano dei muri protettivi, quindi a seconda della nostra capacità di sopportazione siamo in grado più o meno di reagire ciascuno a modo nostro, insomma, ai grandi e piccoli problemi che ci sconvolgono un po' la vita. Io poi sono una che, insomma, è capace di grandi tuffi nei fondali più oscuri, più neri, e poi per fortuna, insomma, la mia pellaccia resiste e sono ancora qui a parlare. Questo per, insomma, dare una botta d'ottimismo a questa puntata. Direi che adesso procediamo di gran lena, perché insomma stiamo andando, insomma, parecchio in là col minutaggio, vedo, ma non mi importa, c'è tanta buona musica che voglio farvi ascoltare. Questi sono i Keyboard Rebel e il pezzo è intitolato Golden Opportunity, e mi piace poi quando i titoli dei brani che piazzo nella mia scaletta, che va formandosi mentre registro, poi alla fine a guardarli a posteriori hanno tutti quanti più o meno una specie di linea che li collega l'uno all'altro, perché insomma si passa dalle origini ai cambiamenti, poi alla casa per un topo. Quando poi è troppo tardi per andar via, ci si ritrova una volta ancora insieme a te, con un fantasma senza fissa dimora, passando per la nebbia, tornando al principio, che è poi un diamante sulla terra che si prospetta come un'opportunità d'oro. Golden opportunity. Yeah, you're my golden opportunity. Yeah, you're my one, my only heresy. Yeah, you're my golden opportunity, opportunity. Yeah, you're my golden opportunity, knocking in front of me. The precious stone, the legends foretold was my destiny. The bed sheets woven into rope, I'm holding tight and sent to be. Yeah, you're my golden opportunity, golden, golden opportunity, opportunity. 'Cause there's a light Abbiamo appena ascoltato Golden Opportunity dei Keyboard Rebel, i ribelli della tastiera, che sono non soltanto un gruppo musicale, ma anche insomma dei ribelli tra virgolette concreti, nel senso che hanno sempre comunque un occhio di riguardo per i temi sociopolitici nelle loro lyrics, nei loro testi, pur facendo del pop, hanno sempre un occhio insomma all'attualità. E hanno deciso anche appunto di destinare gli introiti dalla vendita del merchandise e della loro musica ad Amnesty International. Quindi se volete, insomma, se vi piace la loro musica, insomma, e vorrete anche acquistarla sul sito della aharecords.net, poi trovate comunque il link sempre su radiopazza.blogspot.com, sappiate che insomma il vostro denaro andrà a questa associazione. Passiamo adesso invece ad ascoltare i The Black Atlantic con un brano tratto dal disco Reverence for Fallen Trees, pubblicato su Bandcamp, che più che un'etichetta è un contenitore per artisti che possono crearsi la propria pagina web, il proprio sito web all'interno del loro portale, e condividere così la loro musica, insomma, sia in Creative Commons che non. Loro hanno scelto appunto la formula della distribuzione libera tramite licenza Creative Commons, e ho scelto il brano Fragile Meadow, ovvero un prato fragile. E qui mi torna in mente una poesia pubblicata da una cara amica che riguardava appunto l'erba che viene calpestata e che a lungo andare si trasforma in un sentiero. Woman, tranquilly lay breath at all. Love's cultivation, but I do believe, oh, I am fortunate to have met your woman. Woman, how ephemeral are grace in these wind-stricken plains, but I do believe, oh, it is our fate to reside here, woman. Fragile meadow, fragile meadow, a fragile meadow, a fragile meadow. Woman, I see a blue man, this song that we've shaped, but I do believe, oh, you are a companion and a true lover, woman. Through our rains and Bene, questi erano i The Black Atlantic e Music Escapes numero 3 si avvia alla sua conclusione. Spero appunto che anche questa volta vi sia piaciuta la mia playlist. Io sono sempre DJ Prisma, che vi rimando a commentare, ascoltare, scaricare la puntata su radiopazza.blogspot.com, dove troverete, oltre ai miei podcast, di altri speaker che come me, con tanta passione e rinunciando a ore di sonno o comunque ad altre attività, si dedicano con passione al reperimento di nuova musica disponibile online in licenza Creative Commons, al montaggio audio e al caricamento online, che è comunque una cosa che porta via parecchio tempo, ma che facciamo volentieri, perché non c'è niente di più bello che condividere le cose belle, quindi anche in particolare la buona musica e i bei pensieri, o i brutti pensieri, perché no? Speriamo che prevalgano i primi piuttosto che i secondi. Vi lascio con una lunga cavalcata rock psichedelica, che è più che altro una specie di esperienza di space rock, come viene definita sul sito della Chien Noir Net Label, prodotta da una autentica super banda, la chiamano in spagnolo, un super gruppo formato da Beirut, Traum Machine, Cap de Boira, i Lupo Blu e Naticos, che hanno creato insomma questa sessione preparativa per il secondo festival di psichedelia di Guadalest, che durò per più di 5 ore. Non vi preoccupate, non vi sto per propinare 5 ore di musica psichedelica, ma 15 minuti estratti da questa, che viene definita proprio dallo stesso sito, orgia sonora. Il titolo è Mica Betha Estime Vümme. Non mi chiedete cosa significa Vümme, non lo so, fatemelo sapere magari commentando la puntata sul nostro blog. DJ Prisma vi saluta e vi ringrazia per il paziente ascolto. Alla prossima!